Il tempo che fu, il tempo che fugge non ritorna. Il tempo passa, il tempo che fu, il tempo che fugge non ritorna. Il tempo passa, il tempo che fu, il tempo che fugge non ritorna. Il tempo passa, il tempo che fu, il tempo che fugge non ritorna. Odio, asfalto, ipocrisia, potere, sangue e corruzione. Nell'era dell'oltraggio, guerra, fame, malattia, schiavitù, morte, distruzione e questo gusto marcio. Tempi ostili, tempi freddi, ostili. Tempi ostili, tempi freddi, ostili. Tempi ostili, tempi freddi, ostili. Tempi ostili, tempi freddi, ostili. C'ho altre bombe. Si apre il cielo e piove nuova morte. Luci nella notte e poi più niente. Questo è necessario e per il bene vero. Continua la conquista, sporco inverno. Aio, cercate di redimervi un po'. Io non vivo una cultura che non ho. L'America ci importa un pinchot e non credo sia ok. Non ti insonni, non chiudere gli occhi che stanotte non dormi. Vivi come me, questa volta non torni. Non ti insonni se continua così. Non si distingue più realtà da sogno, se nell'incubo. Oh, l'orrenda realtà e che cerchi di adattarti alla merda della civiltà. La via più comoda e più facile è la trappola. Credi di avere un senso, ma sei soltanto carne scatola. Spacca pietre, sfonda la parete con un solo colpo. Abbatto le barriere mentre frana addosso il mondo. Da quando sono nato spacco pietre ed ho imparato ad affrontare ogni torto. Contro tutti e tutto contro. Io so, chissà, so che chissà, sa che so. La storia è pop di Sassa riso. Da quattro dati un bel po'. Riporto fatti che ho vissuto infatti. Io so, so che chissà, sa che so. Tu è per sempre insieme e non ci può dividere nessuna distanza. E non esiste limite all'amore che abbiamo uno per l'altra. Per questo voglio vivere, sei tu la mia speranza. Fa schifo il posto dove mi trovo. Più pensi che si possa fare, più io mi sento fuori luogo. C'è sempre un buon motivo qui per vivere incazzato. Questo è il mio ruolo, sono sbagliato e fuori luogo. C'ero io, c'eri tu, c'era il voodoo. Oggi un déjà vu, ricorda insieme a me da lassù. Cola come c'era e quel che c'era non c'è più. Ero io, eri tu, era il flow. Occhi insani di rime, occhi in sangue si vive. Dentro a questi giorni di delirio, motivo per dire che anche se mi uccidi resto in piedi, mondo vile. Persi come pochi alla fine. Thank you.